che non sarò più me stesso. Le cose accadono, ti travolgono e ti cambiano. Vorrei spiccare il volo come fossi un angelo. Il mio credo è non dire mai addio ai tuoi sogni. Ognuno di essi è pagina di un libro astratto che sfogli. Think positive in tutti i tuoi giorni, tra sbagli ed imbrogli. Attento perché poi ciò che semi mi raccogli. Non essere egoista, non pensare a te stesso solamente. Metti i tuoi pensieri in lista nella mente. Non trattenere per poi scoppiare come un temporale. Non pensare al futuro, vivi in tempo reale. Chi ti fa del male non sa quanta pochezza e quanto troppo poco vale. Ed ho imparato che la vita è un déjà vu che va via in due soffi. Sol nelle orecchie mi sento strafatta come in un coffee. Quando di problemi ne hai troppi, sembra quasi che ogni azione li raddoppi. E poi quando scoppi, pensi ma sì, va così. Musica lenitrice nelle cuffie lì, te la vivi scialla e te ne fotti. Per ogni volta che ho registrato, per ogni palco che calco, per l'adrenalina ogni volta che salgo. Così intensa e immensa che tutte le volte ho pensato che per magia il cuore si fosse fermato. Un déjà vu per ogni serata con la mia famiglia al parco. E un altro per i miei fratelli in ogni abbraccio dato. Per mia madre che ha provato a mostrarmi l'altro lato. Per mio padre che nonostante i problemi c'è stato. Rivivo ogni déjà vu con i miei amici, perché so che con loro proprio nulla è scontato. Nulla mi è mai mancato, col mio amore per l'ebbrezza di ogni bacio scoccato. Troppi déjà vu felici di quando ero bambina, semplici come guardare mamma dalla cucina. Io intrisa di innocenza sopraffina, di chi non sa le difficoltà che ci stanno in questa vita. Magari fosse scritta a matita. Astratta, spaccona, quarta di musica strafatta da ciò che arte attratta. Dalla femmina infetta, la mia fetta di felicità, me la mangio tutta. E se pensi che col rap sono tipo la frutta, è perché mi mantengo in linea. Ma se mi batti sparo rime a quintali. Sogni e déjà vu, la cura tutti i miei mali. Perché la felicità in realtà è qualcosa di effimero, così bella e crudele che il male tocca redimerlo. La vita è un dare e avere reciproco, e la vivo bene se ogni giorno un nuovo stimolo. E mi fa crescere un pensiero critico, ma open your mind. Perché è un pensiero chiuso quanto rigido. Vorrei essere un amante del brivido, ma sono molto tranquilla. Io sono nella mia musica, non mi limito. Non mi limito, no, che non mi limito.